Che ore sono da te? Lo sanno tutti quanti che può succedere. E abituarsi anche a non pensarsi più, come se fosse niente, come se non sapesse a memoria cosa fai il lunedì pomeriggio e come stai quando piove e nascondi gli occhi dietro a degli occhiali da sole. Ho ancora i brividi sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento e una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere, ma parlo ancora di te. Sembra strano anche a te che lì dov'è guardavamo le stelle, ci hanno fatto un hotel e non si vede più il cielo adesso in mezzo a tutte queste persone. Ancora il mio profumo addosso, il solito rossetto di scrivere un messaggio, ma l'iPhone sempre spento, una stanza troppo grande per quel palco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere, ma parlo ancora di te. Io parlo ancora di te. Parlo ancora di te. Ho ancora i brividi sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento e una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere, ma parlo ancora di te.